Illustrissimo signor direttore della Banca d'Italia, la ditta Tommaso Bonocore da Vigata è sciolta da più di 2 anni per i patiti rovesci. Si rivolge alla signoria vostra illustrissima chiedendo un equo componimento con l'istituto dalla signoria vostra amministrato. È notorio che la ripetuta ditta Bonocore aderì all'impegno di salvare il parente e di salvaguardare l'istituto, cosa che Salvatore Barbabianca si guardò bene di fare nei riguardi di un parente così prossimo come un figlio, pur potendo dimostrare capitali, crediti, immobili e giro d'affari infinitamente più vasti di quelli di una povera, anche se onesta, ditta come quella del sottoscritto. Però il deficit del signor Barbabianca Emanuele, essendo di molto superiore a quello saputo da casa Bonocore, ne venne che questa non poté resistere e cadde nel baratro. Si salvò invece il Barbabianca Emanuele, che fattosi libero in virtù delle nostre garanzie, trovò prontamente e stranamente il modo di tornare a rifugiarsi sotto le ali paterne. La caduta della ditta e della casa Bonocore fu accompagnata dalla massima buona fede. La ditta si spogliò di tutto a pro dei suoi creditori, consentendo ipoteche sopra i pochi beni stabili che ancora le restavano, e indi vide i suoi componenti precipitati in dura miseria. Agendo da onesti commercianti e per conservare fino all'ultimo la rispettabilità di cui la nostra cessata ditta fino all'ultimo godette, le proponiamo che a completa liberazione di quanto dovuto all'istituto ella voglia accettare la somma di italiane lire 8.000 ricavate dalla vendita di un pezzo di terra che apparteneva alla defunta moglie del Bonocore. Altro non possediamo se non gli occhi per piangere. Certo d'una sua comprensiva risposta positiva, dal più profondo dell'anima mi creda,